Summertime di Elisabetta Fiorito. Buon pomeriggio, iniziamo con Vivaldi, iniziamo con Gloria in Excelsis Deo, ma anche Gloria, la nostra fida assistente, Gloria Guerrera, che sta dall'altra parte del vetro ogni giorno insieme ad Alessandro Chiappini. E iniziamo con questo bellissimo brano per parlare invece di qualcosa che è avvenuto molto prima di questo, che questo brano fosse scritto, qualcosa che arriva da Roma durante l'impero. Traiano, il giovane imperatore di Roma, è uno spettacolo inedito che debutta questa sera a Roma, ai Mercati di Traiano, quindi un'atmosfera tutta di tutto rispetto, e noi invitiamo chiunque si trovi a Roma, anche in vacanza, ad andare a vedere questo spettacolo, che sarà in scena fino al 31 luglio alle 21, ed è uno spettacolo di Daniel Fermani. Di che cosa parla? Parla praticamente di Traiano, come arrivò ad essere uno degli imperatori più amati e nello stesso tempo più temuti di Roma. Alessandro Sena interpreta Traiano. Buon pomeriggio, Alessandro. Buon pomeriggio a voi. Emozionato per questa prima? Molto emozionato, come non esserlo. Lavorare ai Mercati di Traiano è un'emozione in sé, poi al di là di quello che uno porta. Io ieri ero in prova, abbiamo fatto la generale, è andata molto bene, a un certo punto mi sono fermato e ho detto: ma dove sono? Veramente mi sono sentito molto molto privilegiato e fortunato di lavorare su un testo appunto di Daniel Fermani, che è un testo inedito e per la prima volta viene rappresentato in Italia, e soprattutto poi lavorare con dei professionisti che mi seguono in questa avventura, che sono appunto Laura Valente, che ritorna a cantare dopo molti anni. Lo ricordiamo, lei è stata cantante dei Mattia Bazar per molti anni, è un talento straordinario che in questa particolare occasione renderà omaggio a Giuni Russo, e poi Daniele Lequaglia, uno dei 10 sopranisti italiani che appunto interpreta il Gloria, e poi chiaramente gli attori che sono insieme a me, che li cito velocemente: Irene Canale, Martina Obaldi, Andrea De Bruin, e i ballerini Carlotta Bellucci e Valerio Di Vita, e poi siamo accompagnati da una meravigliosa pianista che è Graziella Spinali. Quindi particolarmente fortunato, io interpreto Traiano e questo posto è meraviglioso. È poi uno spettacolo molto particolare perché c'è la danza, la musica dal vivo con questi professionisti meravigliosi, la recitazione, il tutto nel raccontare un Traiano anche inedito, un Traiano combattuto fra voler essere guerriero ma anche umano, in questo meraviglioso posto che sono i Mercati di Traiano. I Mercati di Traiano. Ma poi io so che non è che è proprio tutta musica classica, perché la coscienza parla a Traiano attraverso le canzoni, anche quelle attuali. Sentiamo. L'estate appassisce silenziosa, foglie dorate gocciolano giù, apro le braccia al suo declinare stanco e lascia la tua luce in me. E sentiamo questo omaggio proprio a Giuni Russo, Alessandro, come dicevi tu prima, no? È un omaggio, guarda, nato per caso, nel senso che quando con Laura Valente ci siamo incontrati, c'era questa voglia di lavorare insieme, chiaramente Daniele Lequaglia, il sopranista, ha un repertorio molto più classico, Vivaldi, Handel, perché poi Daniele, fra l'altro, tutti i personaggi non sono solo cantanti, ma interpretano un ruolo all'interno dello spettacolo, quindi Daniele Lequaglia era l'oracolo al quale Traiano chiede appunto notizie su quello che sarà il suo futuro. Laura Valente è la coscienza di Traiano. E quando con Laura ci siamo detti ma che tipo di repertorio vogliamo dare alla coscienza di Traiano, ci siamo guardati negli occhi e in quel momento abbiamo deciso: facciamo un omaggio a una cantante straordinaria che è Gioni Russo. E abbiamo scelto tre musiche che sono appunto La sua figura, L'attesa e Malinconia. E devo dire, nelle parole, seppur scritte in un altro contesto, sono quelle parole che veramente coincidono con quelli che sono, erano i sentimenti di Traiano in quel momento. Ecco, ma tu come interpreti questo giovane imperatore? Cioè, tu a un certo punto che cosa hai scoperto Traiano, di questa figura? Questo è proprio il punto di domanda di tutto lo spettacolo. Traiano, uomo forte, amato dal Senato, amato dal popolo, veramente Traiano che conquista la Dacia, che istituisce l'istituto alimentare, quindi lui per primo è stato il primo imperatore a decurtarsi, cosa anche attuale, diciamo. Insomma, il Ministero dell'Agricoltura, quello che oggi diciamo sarebbe il Ministero dell'Agricoltura. A decurtarsi parte dei suoi introiti per devolverli ai bambini orfani dei suoi soldati morti in guerra, chiaramente. Quindi è stato veramente l'imperatore più amato dell'impero. A un certo punto si chiede, ma ne valsa la pena? Nel senso, tutto questo che ho fatto per la mia Roma, la Roma imperiale, cosa mi è costato? Una parte di me stesso, una parte di desiderio? E lui chiaramente è il giorno in cui si chiede se è valso la pena fare tutto questo. E quindi poi dall'altra parte anche quello più temuto, perché gli imperatori non sono mai sempre tutti buoni, no? C'è sempre un contrasto bianco-nero e noi giochiamo molto su questo contrasto dei personaggi, tant'è che la mise-en-scène è una mise-en-scène tutta in bianco e nero, i personaggi sono vestiti tutti in bianco e nero, non c'è chiaramente bisogno di scenografie ai mercati di Traiano, se non il pianoforte. È naturale. È naturale, brava, e chiaramente perché? Perché il bianco e nero è il contrasto che vive in ognuno di noi, anche in Traiano, in quel giorno in cui si ferma un attimo e si chiede, ma ho fatto questo, al quale prezzo? E c'è la coscienza che lo interroga, chiedendogli veramente ne è valsa la pena, e poi c'è un finale a sorpresa che chiaramente... Allora, non svegliamo, ricordiamo che da oggi fino al 31 luglio, Traiano, il giovane imperatore di Roma, un testo di Daniel Fermani con Traiano Alessandro Sena, i mercati di Traiano a Roma, ovviamente, ore 21. Se Achille fosse stato vivo e avesse voluto dare le sue armi a qualcuno come premio del suo valore, le avremmo avute noi, e nessun altro, e invece agavendone in Menelao, se le sono svendute ad un furbo, un infame, un cane capace di ogni bastardo. E questa è l'ira di Aiace, perché sappiamo benissimo, poi ce lo ricordiamo anche dai sepolcri di Ugo Foscolo, che questo eroe greco, l'eroe più valoroso, fu derubato delle armi che vennero date, delle armi di Achille che vennero date ad Ulisse. Ovviamente Sofocle 2400 anni fa, 2005 quasi, insomma, ci scrisse una tragedia che ancora oggi è rappresentata e che sarà rappresentata questa sera al Monte Porzio Catone in provincia di Roma, al Teatro Romano di Tuscolo. È una rassegna che va avanti fino al 1 agosto, vede in scena Aiace di Sofocle, Fedra di Euripide e poi anche Quattro risate con Lisistrata di Aristofane. Buon pomeriggio a Giuseppe De Righi, presidente della Comunità dei Castelli Romani e Prenestini. Buongiorno. Allora, come ci si prepara in provincia di Roma a questa ondata di tragedie greche col vino dei Castelli? Che cosa fate? No. Il vino dei Castelli farà anche da accompagnamento, perché tra le altre cose gli ospiti della nostra serata potranno anche deliziare la loro preparazione alla tragedia e il loro ritorno a casa con la degustazione di prodotti tipici del nostro territorio. Ma questo fa da contorno, il piatto forte veramente è costituito dalle tre opere classiche che diciamo così, in questi giorni la faranno diciamo così, da padrone nel teatro di Tuscolo, nell'area archeologica di questa antica città, proprio nel teatro romano costruito nel primo secolo avanti Cristo e che ha visto i passi particolarmente anche importanti di un personaggio famosissimo dell'antica Roma come Marco Tullio Cicerone. poi tra le altre cose ricordiamo che questi drammi che vengono rappresentati adesso al Teatro Romano di Tuscolo a Monteporzio Catone, quindi a pochi passi da Roma, sono organizzati dall'Istituto Nazionale per il Dramma Antico. Certamente, allora da 3 anni ormai abbiamo stretto questa collaborazione diretta tra la nostra comunità montana e l'Istituto Nazionale del Dramma Antico, proprio per valorizzare questo sito archeologico, questo teatro così importante, posto immediatamente alle spalle di Roma. Teniamo conto di una cosa poi, che tra la città di Tuscolo e la città di Roma c'è sempre stato un rapporto strettissimo fin quasi dalla fondazione di Roma. Tra i primi consoli si vantano proprio dei tuscolani, quindi voglio dire, subito dopo la cacciata di Tarquinio il Superbo, la seconda tornata di consoli vede proprio un tuscolano come console di Roma, con il nome di Ottavio Mamilio. Quindi siamo in una situazione anche delicatissima e di importanza strategica per questo rapporto. Allora, Teatro di Tuscolo, ricordiamo, il Teatro Greco di Siracusa si sposta per pochi giorni, per questo weekend, a Monteporzio Catone, al Teatro Romano di Tuscolo. Le rappresentazioni sono alle 20:30, abbiamo Aiace oggi e domani, poi Lisistrata da giovedì e venerdì e Fedra da sabato e domenica, ore 20:30, Linda, l'Istituto Nazionale del Dramma Antico, insieme alle comunità dei castelli romani e prenestini. Grazie a Giuseppe De Righi. Grazie a voi, è stato veramente un piacere, noi vi aspettiamo numerosi. Summertime. Adesso andiamo nella città di Loano, sì, perché volete saperne di più sulla musica popolare tradizionale italiana? E allora dovete proprio andare al Premio Nazionale Città di Loano, che ha aperto i riflettori nella sua 6ª edizione e che vede la direzione artistica di John Vignola. Noi chiediamo, fino a sabato 31 la musica popolare sarà protagonista con concerti, incontri, premiazioni e 3 speciali produzioni. John, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Ma qual è questa musica popolare? Tipo la tarantella, la pizzica, cioè quello che vorremmo capire. Oppure la canzone napoletana classica. Ci spieghi un attimo? E tutte queste cose, la musica tradizionale e nello stesso tempo nessuna di esse, o meglio, è la curiosità rispetto alle nostre radici che genera incroci, intersezioni, che fanno parte, per esempio, delle tradizioni occitane oppure di quelle partenopee o ancora dei canti e dei balli salentini. La musica popolare è, in altre parole, quel tipo di espressione legata al nostro territorio che ha un modo di diffondersi che non è solo quello delle produzioni discografiche, ma è quello del passaparola, dei concerti, delle storie, della tradizione orale, quella che in qualche modo tiene in piedi una musica vividissima che poi troviamo un po' dappertutto, la troviamo anche nelle grandi produzioni, la troviamo in nomi che sono famosi, da Eugenio Bennato a Teresa De Sio, Ambrogio Sparagna e tanti altri, Enzo Avitabile, ecco, ne dico alcuni semplicemente perché questi sono la punta di un iceberg, ma sono talmente celebri anche da sottolineare che la musica popolare è in ogni luogo e non è nemmeno così una musica di nicchia. E in questi 3 giorni io vedo gli appuntamenti sono pomeridiani, serali alle 18:30 o anche alle 21:30, giusto? Sì, si tratta di concerti veri e propri, in realtà, di produzioni legate a questo premio che ormai va avanti da 6 anni e che ha avuto anche l'onore della medaglia d'argento del Presidente della Repubblica. È un modo per proporre la musica popolare in queste produzioni che sono gratuite e si svolgono per la maggior parte all'Arena Estiva Giardino del Principe di Loano intorno alle 21:30 di sera. Il clou ci sarà questo venerdì con Riccardo Tesi, Maurizio Geri, che insieme ricordano ricorderanno una grande di questa musica, di questo filone, Caterina Bueno, che forse qualcuno si ricorda perché è la protagonista di una canzone di Titanic di Francesco De Gregori, Sopra i tetti di Firenze, omaggio a Caterina Bueno, che vedrà tra gli altri Claudio Carboni, Filippo Pedol e tanti altri, per esempio Lucila Galeazzi. È una delle nostre produzioni fatta appositamente per il nostro premio, che poi sarà seguita il giorno dopo, sabato 31 luglio alle 21:30, da un omaggio a Domenico Modugno che si chiama Il Folk dipinto di blu, con una serie di artisti che incrociano il nord e il sud della nostra penisola. Insomma, è una veramente una rassegna da non perdere. Premio nazionale Città di Loano in provincia di Savona, diciamolo, giusto? Certo. John, si parte dalle 18:30, ma poi ci sono i concerti veri e propri alle 21:30, come abbiamo sentito dall'organizzatore John Vignola, un modo per riscoprire la nostra musica folk, popolare, insomma le nostre radici e grandi artisti. Grazie. Grazie a voi. E adesso andiamo a Calatafimi, dove c'è il Segesta Festival 2010, da Eschilo a Sciascia, niente proprio di meno, musica ed il ritorno della danza al teatro antico. Allora, buongiorno a Enrico Stassi, direttore artistico proprio del Calatafimi Segesta Festival. Buongiorno. Allora, quante novità quest'anno, le baccanti di Euripide, e che cosa vuol dire poi veramente recitare in un teatro antico? Segesta è una passione, la passione di chi la organizza e di chi vi recita, e la passione è quella di entrare in un luogo che era fondamentalmente legato alla comunità. Non c'era polis nell'antichità, si sa benissimo, cioè una città non poteva chiamarsi polis, un centro, un luogo abitato, se non aveva il suo teatro, perché era il luogo dove la comunità si raccoglieva, si interrogava, dialogava con le divinità del luogo, quindi col genius loci, e si riconosceva e si poneva anche dei grossi interrogativi. Ecco perché gli interrogativi di allora possono diventare tranquillamente anche gli interrogativi di oggi, come quello che ci viene proposto da spettacoli anche di impegno civile, come il giorno della civetta di Sciascia, o come l'eccezionale presenza in scena di Giuseppe Ayala, che è proprio in scena in un allestimento tratto dal suo libro, in cui racconta degli anni nel pool con Falcone e Borsellino. Quindi ci sono dei temi classici, come abbiamo sentito al Cestimon Amour, che apre la rassegna da Euripide, poi La donna di Samo di Menandro, però poi ci sono anche delle cose particolari, tipo appunto Roberto Vecchioni, no? Con ex Vecchioni, cattedra, per sì, dire. Sì, esatto, Roberto Vecchioni, ecco, in una cornice, perché c'è stata una grossa attenzione nel definire il programma, che è stata proprio quella di essere rispettosi dei luoghi, ecco, di dialogare con i luoghi, dopo una metafora, di dialogare con le divinità del luogo, no? Per cui Roberto Vecchioni non è presente con un concerto di quelli che di solito appunto porta in giro, diciamo che è una valutazione e rivalutazione, o piena valutazione, di questa sua seconda anima, cioè di studioso di lettere classiche, per cui terrà una lectio magistralis in cui parla degli autori antichi, recita dei versi e poi si allarga e si estende anche ai poeti contemporanei, cioè comunque a tutto quel suo mondo che è stato alla base della sua ispirazione anche musicale. Poi abbiamo insomma tantissime cose, Pino Daniele, sì. La interrompo perché vedo, più un programma così ricco, Cassandra e Re, Da Omero, Eschilo, La Palma Clandestina, Teatro Danza, Gli Argonauti, insomma è veramente una rassegna, una kermesse invidiabile. E inoltre c'è anche da dire che quest'anno il festival intercetta anche un progetto speciale che si chiama Teatri Antichi di Sicilia, Circuito Epicarmo. Sono delle produzioni di eccellenza che gireranno sia a Segesta, sia a Palazzo Lacredite, sia a Morgantina e sia al Teatro Greco di Pindari. Calatafimi Segesta, fino al 29 agosto. Io ringrazio Enrico Stassi, grazie al Teatro Antico. Grazie a lei, arrivederci. E si conclude qui questo viaggio nel passato, oggi Summertime. Abbiamo iniziato con Traiano, il giovane imperatore di Roma, ai mercati Traianei di Roma, appunto, poi il Teatro Romano di Tuscolo, che ospita addirittura il Teatro Greco di Siracusa. Poi abbiamo sentito, si possono riscoprire le nostre radici folk, della musica folk, con con il premio nazionale della città di Loano a Savona e il Calatafimi Segesta Festival da Eschilo addirittura a Sciascia. Tutto questo lo potete trovare sul nostro sito www.radio24.it per capire quali sono gli appuntamenti della serata. Io ringrazio Gloria Guerrera in redazione, Alessandro Chiappini in regia. Vi ricordo che ci potete scrivere summertime@radio24.it. Vi aspettiamo.